non siate disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore, Efesini 5,17. Ci fu un periodo della mia vita nel quale chiedevo a tutti se conoscevano la volontà di Dio. Un giorno, distribuendo volantini che parlavano di Cristo, incontrai un sacerdote e gli porsi un opuscolo dal titolo «La volontà di Dio». Il religioso fece cenno di non gradirlo e io gli chiesi se conosceva la volontà di Dio ed egli mi rispose di no. Allora dissi, questo opuscolo fa per lei. E lo prese. Devo confessare il mio stupore per quanta ignoranza ci sia in merito alla volontà di Dio. In una nazione come l'Italia, la quale su affermazione dei politici ha le sue radici nel cristianesimo, fra i componenti del popolo che l'abita e che ha la sua portata la Bibbia, che sente predicare almeno ogni domenica dai pulpiti del cattolicesimo romano la parola di Dio per una ragione che appare veramente assurda, quasi nessuno, almeno per la mia esperienza, sa dirmi in poche parole qual è la volontà di Dio. Se un religioso che ha studiato per insegnare agli altri il volere di Dio non conosce qual è la sua volontà, com'è possibile che conoscano il volere di Dio le persone semplici? In un certo senso si potrebbe rispondere che la volontà di Dio è quella espressa nella sua parola, e ciò è vero. E poiché da millenni la parola di Dio è stata interpretata variamente, e poiché non tutti quelli che predicano il volere di Dio sono d'accordo, mi sono messo a leggere le sante scritture per trovare qualche espressione che potesse dirmi senza ombra di dubbio qual sia la volontà di Dio. E evidente che non mi sono accontentato di qualche vaga espressione, ma ho cercato proposizioni che contenessero la dichiarazione «questa è la volontà di Dio», asserzione che non lascia possibilità di interpretazioni soggettive. Così ho trovato che vi sono almeno 7 dichiarazioni nella scrittura, nelle quali espressamente viene dichiarata qual è la volontà di Dio. La cosa mi ha fatto molto piacere, ma nello stesso tempo mi sono sentito più che mai responsabilizzato, perché fin tanto che un comando è generale ho lo spazio di agire secondo la mia volontà. Ma quando l'ordine è preciso e inequivocabile, allora non vi è possibilità di scappatoia. Conoscere la volontà di Dio produce lo stesso effetto. Se fino ad oggi non la conoscevo o ne avevo una vaga idea, la mia responsabilità era poca. Ma nel momento in cui conosco la volontà di Dio non ho più nessuna scusa. Non mi rimane che compierla, diversamente, non mi rimane che il giusto giudizio di Dio. Gesù Cristo ha parlato molto della volontà di Dio perché non cercava la sua volontà ma quella del Padre, Giovanni 5,5, eppure vi sono poche dichiarazioni dove espresse chiaramente la volontà di Dio. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Perché io sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui, abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 6, 37-40. Non vi è dubbio che Cristo Gesù è venuto sulla terra per parlare all'uomo della salvezza, per la quale egli è pure morto in croce e poi risuscitato. Se Gesù ha parlato della necessità di essere salvati, significa che la razza umana è perduta, al di là che questa possa essere o non essere religiosa. Perciò, la volontà di Dio è, innanzitutto, che chi pone fede in Cristo abbia vita eterna e venga risuscitato nell'ultimo giorno. Questo primo aspetto dello stato di totale perdizione dell'uomo e dell'acquisizione della totale salvezza, per chi accetta Cristo quale Salvatore e Signore, deve costituire l'inizio, il fulcro e il finale di ogni predicazione del Vangelo. In questo il cattolicesimo romano ha fallito miseramente perché, seguendo la propria dottrina in merito al battesimo, che pretende di fare dei neonati dei figli di Dio, esso toglie dalle coscienze delle persone che sono state sottoposte a tale rito tradizionale la consapevolezza di essere di fatto dei figli del diavolo. Così, chi predica l'Evangelo in una cultura sedicente cristiana si rende conto, come è successo a me nel caso citato sopra riguardo al sacerdote cattolico romano, di quanta ignoranza vi sia in merito al primo degli aspetti della volontà di Dio, secondo il quale agli uomini è richiesto di credere in Cristo quale loro Salvatore. Il secondo aspetto della volontà di Dio, anch'esso presentato da Gesù, è quello della certezza eterna. Anche questo messaggio è fortemente contrastato da ogni tipo di religione nelle quali la certezza della salvezza non esiste e deve essere assicurata dalle opere. Eppure la volontà di Dio è certa. Chi pone fede in Cristo ottiene ora la vita eterna. Ne è assicurazione il fatto che rientra sempre nella volontà di Dio. Che nessuno di quanti appartengono a Cristo sia perduto. Nonostante questa chiarezza, gli uomini trovano vari sotterfugi per liberarsi dalla giusta, perfetta, accettevole volontà di Dio. Romani 12:2. Un giorno i discepoli chiesero al Maestro chi era il più grande nel regno dei cieli, e Gesù rispose che chi diventava come un piccolo fanciullo, quello era il più grande. In seguito disse: «Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neppure uno di questi piccoli perisca». Matteo 18:14. L'affermazione di Gesù, se considerata e creduta da chi passa la dolorosa esperienza di vedere morire il proprio bambino, come un altro bambino qualsiasi, è un sollievo non indifferente. Sono convinto che davanti a questa rivelazione potrebbero anche sorgere dei problemi perché, all'apparenza in cielo, andrebbero persone che non lo hanno scelto, e questo contraddice quanto affermato precedentemente, ma la volontà di Dio non si può racchiudere in una dottrina. Anche nelle lettere dell'Apostolo Paolo non troviamo molte volte l'espressione «questa è la volontà di Dio», ma due volte sono sufficienti per indicare i punti più importanti del cammino cristiano. Per il resto, dunque, fratelli, vi preghiamo ed esortiamo nel Signore Gesù che, come avete ricevuto da noi, in quale modo vi conviene camminare per piacere a Dio, abbondiate molto più in questo. Voi conoscete infatti quali comandamenti vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore, non con passioni disordinate, come i gentili che non conoscono Dio, e che nessuno inganni e frodi negli affari il proprio fratello, perché il Signore è il vendicatore di tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e attestato prima. Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio che vi ha anche dato il suo Spirito Santo. 1 Tessalonicesi 4:1-8. Paolo ricorda ai credenti di Tessalonica i comandamenti che aveva dato per ordine di Gesù allo scopo di piacere a Dio. Ma poiché, come abbiamo considerato, alla fine è difficile fare un riassunto della volontà di Dio, egli ne fa una sintesi in questo modo: essere santi. Anche essere santi è un'espressione vaga. Perciò Paolo scende nel particolare: non fornicare, cioè avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio. Saper contenere le esigenze del proprio corpo, non imbrogliare. Le direttive sono chiare, eppure se vi sono delle trasgressioni sono proprio queste. E Paolo ricorda che chi non osserva queste regole disprezza Dio. L'altra espressione di Paolo la troviamo sempre nella lettera ai Tessalonicesi al capitolo 5. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 5:18. La volontà di Dio è che i suoi figli siano riconoscenti in ogni situazione della vita. Questo ordine a volte mette in crisi chi ha posto fede in Gesù. Com'è possibile rendere grazie, cioè ringraziare Dio, quando le circostanze della vita sono sfavorevoli? Posso io essere riconoscente, rendere grazie davanti alla morte di un mio caro? Posso io avere dei sentimenti di riconoscenza nei confronti di Dio quando tornano le nuvole dopo la pioggia? La prima risposta è no, perché la mia natura si ribella a ogni circostanza negativa della vita, ma quando ho conosciuto l'amore di Dio per lo Spirito Santo posso rendere grazie in ogni cosa e ricordo a me stesso che i veri valori non sono terreni ma celesti. Se cerco di essere consolato con le cose terrene, le promesse di Dio servono ben poco. Così scrive ancora l'Apostolo Paolo a Timoteo, Ti esorto dunque prima di ogni cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e decoro. Questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. 1 Timoteo 2, 1 a 5. La volontà di Dio è che tutti gli uomini, e non solo alcuni, siano salvati. Anche l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera scrive in merito alla volontà di Dio. Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità costituita, sia al re come al sovrano, sia ai governatori, come mandati da lui, per punire i malfattori e per lodare quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che, facendo il bene, turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. 1 Pietro 2 e un quarto. La volontà di Dio, per i suoi figli, è che non sovvertano le istituzioni pubbliche, anche se la loro fede non lascia intatta nessuna costituzione, perché ogni autorità è stata costituita da Dio per il bene della società. Perciò, è sempre volontà di Dio che i suoi figli facciano del bene per far tacere chi parla male di loro. Questo metodo non può essere in nessun modo accettato, se non per fede. Noi siamo inclini a voler far giustizia direttamente, siamo inclini a rispondere per le rime, ma la volontà di Dio è che i credenti lascino a Dio il diritto di far giustizia quando vuole e come vuole. La volontà di Dio è sempre più giusta delle nostre opinioni. Come conclusione, possiamo dire che nella Bibbia ci sono molte cose difficili da capire, ma questi aspetti della volontà di Dio sono di una chiarezza disarmante. Perciò, credere in Cristo, comportarsi giustamente, ringraziare Dio in ogni situazione, fare sempre del bene, rientra nella precisa volontà di Dio. Lasciamo a Dio le sue decisioni, a noi spetta di osservare il suo volere, perché il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. 1 Giovanni 2,17. Febbraio 2005. Ellero.